Le notizie in 60 minuti di Simone Spezia. L'operazione contro il terrorismo jihadista, una base a Merano e gli ordini arrivavano da un mullah detenuto in Norvegia. Siamo esposti, ma la prevenzione funziona, dice il ministro dell'interno Angelino Alfano. 8 persone in manette tra Italia e Grecia per gli scontri nel giorno dell'apertura di Expo, identificati grazie ai video e alla spesa in un supermercato, 2 ancora latitanti. Nuovo calo dei matrimoni, meno 23% dal 2008. Nel nord è sorpasso tra quelli civili e quelli religiosi, rallentano separazioni e divorzi, su questo pesa la crisi economica. Si sta chiudendo in questi minuti il vertice sull'immigrazione a Malta, le conclusioni firmate all'unanimità, bicchiere molto più che mezzo pieno, dice Renzi. Legge di stabilità, tra gli emendamenti il raddoppio del bonus mobili per le giovani coppie, parla il Presidente del Consiglio sulla flessibilità, le nostre richieste in linea con l'Unione Europea. Sono 5 i candidati considerati idonei alla presidenza della FIFA, sospeso al momento il giudizio su Platini. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Come sempre potete scriverci se volete a effettogiorno@radio24.it e da ieri abbiamo attivato anche il contatto su WhatsApp, il numero è lo stesso degli SMS, il 349-238-6666 se volete scriverci anche là. In apertura oggi la cronaca con una serie di importanti operazioni di polizia che si sono svolte questa mattina. Iniziamo da una che riguarda il terrorismo internazionale. I dettagli in diretta da Raffaella Calandra. Raffaella, buongiorno. Buongiorno, e il primo sono le parole delle persone che sono state arrestate. La soluzione è attaccare un'ambasciata. Nelle conversazioni su chat i loro piani erano espliciti, volevano vendicare l'arresto in Norvegia del loro capo, il mullah Krekar, già fondatore del gruppo Ansar al-Islam, e per questo pianificavano attentati contro l'ambasciata inglese ad Oslo, contro sedi diplomatiche a Baghdad, nei teatri di guerra siriani, ma non in Italia. Qui da noi in invece gli 8 jihadisti arrestati nel Maxi Blitz contro il terrorismo internazionale, che ha portato in carcere in totale 17 persone, 16 curdi e un kosovaro, si dedicavano soprattutto a trovare nuovi seguaci, a trovare soldi ed armi e ad organizzare viaggi verso le frontiere del Califfato. È una cellula molto attiva e nevralgica di tutta la rete internazionale Rauti Shaks, quella identificata a Merano, con base appunto quella identificata in tutta Italia, con base soprattutto a Merano, dove Abdul Rahman Narroz, uno dei capi, indrottinava futuri jihadisti, alcuni dei quali, come è stato visto in tempo reale dal ROS, sono poi morti in Siria, ammette il procuratore aggiunto di Roma Giancarlo Capaldo. Sentiamo. Nel corso delle indagini abbiamo anche visto alcuni combattenti della struttura partire per la Siria, combattere e morire. Alcuni dei personaggi che noi abbiamo intercettato e seguito anche all'estero, con intercettazioni mobili all'estero, poi sono morti proprio nella guerra santa. C'è anche chi, come il Dean Hozza, partito da Merano per il Medio Oriente e poi anche rientrato in Italia, ma non ci sono evidenze di piani contro il nostro paese, ribadiscono gli inquirenti. Il loro obiettivo qui da noi era soprattutto il reclutamento di nuovi jihadisti, mentre il loro obiettivo, l'obiettivo di tutta la rete, era la realizzazione di uno Stato islamico del Kurdistan, conferma il comandante del ROS Giuseppe Giovenale. Prevedevano la possibilità di svolgere degli attentati fuori dall'Italia, però nell'area medio orientale, per fare pressione per la liberazione del loro capo, che è un mullah, che si chiama Mullah Krekar, recluso in Norvegia. Queste erano dunque le parole del comandante del ROS Giuseppe Governale. L'inchiesta va ancora avanti, non è ancora finita, ma questi sono gli elementi principali emersi fino ad ora. Simona. Ti ringrazio, grazie alla nostra Raffaella Calandra per questo aggiornamento. Intervista al comandante del ROS che è firmata dalla nostra Katia Caramelli. Noi torneremo a parlare di terrorismo, tra l'altro tra poco, e lo faremo con un esperto di terrorismo internazionale per capire anche il peso e l'importanza di questa operazione. E però ci sarebbe collegamenti con lo jihadismo anche nell'inchiesta di questa mattina a Napoli, un'inchiesta nella quale si ipotizza traffico di armi e reclutamento di mercenari e vede anche il coinvolgimento del clan dei Casalesi. Laura Viggiano, buongiorno. Sì, buongiorno. Diciamo che le fonti non parlano ancora apertamente di terrorismo internazionale, ma comunque al centro di questa inchiesta, come dicevi, c'è l'arruolamento, l'addestramento di mercenari, traffico d'armi verso i paesi africani interessati da embargo. Al momento l'indagine è della DDA di Napoli, condotta dalla PM Carello Maresca e Maurizio Giordano, coordinati dalla giunta Borrelli. Ci sono appunto tracce, insomma, al momento di contatti con ambienti che sono vicini appunto al terrorismo internazionale. Questa mattina sono state eseguite una trentina di perquisizioni in diverse regioni, tra cui Campania, Veneto, Lazio, Piemonte e Lombardia. Da quanto è trapelato, una interessata alla società italiana Elicotteri, l'inchiesta della DGA di Napoli riguarda un'associazione a delinquere dedita al traffico internazionale di armi, componentistica di aerei e di elicotteri, e arruolamento e addestramento di mercenari. Tra le persone indagate vi sono soggetti ritenuti dagli inquirenti vicini al clan dei Casalesi, che si sarebbero occupati anche della fase di addestramento dei mercenari e faccendieri veneti. L'inchiesta ha avuto origine da accertamenti svolti sulle attività del clan dei Casalesi e è approdata, come dicevamo prima, su un filone che intreccia un'associazione a delinquere che, da quanto si sa, non è chiaramente identificabile come terrorismo internazionale, ma pare abbia contatti anche con ambienti di terrorismo, comunque con paesi che vivono situazioni di conflitto e tensioni come la Somalia e altri paesi, insomma, africani. Ti ringrazio, grazie a Laura Viggiano per questo aggiornamento. Adesso ci spostiamo a Milano, un'altra operazione di polizia di tutt'altro tipo che riguarda gli scontri che ci sono stati il 1° maggio in occasione dell'inaugurazione di Expo. Le accuse sono di devastazione e saccheggio, resistenza aggravata a pubblico ufficiale e travisamento, reati commessi durante gli scontri della manifestazione May Day Parade No Expo del 1° maggio scorso a Milano, il giorno di apertura dell'esposizione universale. 10 le ordinanze di custodia cautelare emesse a carico di 5 giovani milanesi dell'area narco-squatter antagonista, già noti alla Digos, e altrettanti anarchici greci venuti in Italia proprio per devastare, scrive il GIP. Tra loro Alexandros Kouros, il più pericoloso del cosiddetto blocco nero. 8 gli arrestati, 2, un italiano e un greco, sono infatti latitanti. Altri 5, 3 milanesi, un comasco e un greco, risultano indagati a piede libero. All'identificazione dei responsabili si è arrivati in 6 mesi di indagini grazie all'analisi certosina di una mole enorme di foto e filmati, come ci spiega il dirigente della Digos di Milano, Claudio Ciccimarra. Abbiamo estrapolato un numero considerevole di fotogrammi che poi si sono rivelati fondamentali per evidenziare ogni più piccolo dettaglio. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E veniamo a notizie degli ultimi minuti, ossia la chiusura, siamo a ridosso della chiusura del vertice internazionale sull'immigrazione che si sta svolgendo a Malta. Un punto lo facciamo con Sergio Nava. Sergio, ciao. Sì, buongiorno. Vertice euroafricano della Valletta si è concluso da pochi minuti e è già in corso la conferenza stampa conclusiva. Ricordiamo anche però sarà seguito nel pomeriggio e in serata da un vertice dei soli leader europei sempre a Malta. Allora, vertice euroafricano concluso in anticipo sia con l'adozione unanime della dichiarazione politica sia appunto del piano d'azione da parte dei 60 leader presenti, 5 le priorità, 16 le azioni specifiche contenute nel piano. In conferenza stampa il presidente del Consiglio europeo Tusk ha detto: faciliteremo i rimpatri preferibilmente su base volontaria, ha annunciato che team dei paesi africani viaggeranno verso i paesi europei per identificare coloro che sono migranti illegali, cioè coloro che non hanno diritto di rimanere. E ha annunciato però in cambio anche progetti per aumentare le opportunità di impiego anche a livello educativo in Africa, progetti chiaramente europei, anche che l'Europa invierà anche team di indagine contro i trafficanti di uomini in Africa. Il Tusk ha anche lanciato ammonito: salvare Schengen è una corsa contro il tempo e siamo determinati a vincere questa corsa. Ovviamente questo riguarda il fatto che molti paesi stanno alzando barriere. Infine l'annuncio di un fondo europeo da 1,8 miliardi di euro, fondo varato oggi, fondo fiduciario di emergenza per la lotta contro le cause della migrazione irregolare, 1,8 miliardi li mette l'Europa, gli altri dovrebbero mettere, sempre 1,8 miliardi, li dovrebbe mettere i paesi europei. Al momento da parte dei paesi europei ci sono solo 78 milioni. Allora ti ringrazio Sergio per il momento. Tra l'altro, come avete sentito, la conferenza stampa è ancora in corso e più avanti torneremo a collegarci con Sergio Nave, sentiremo anche qualche voce da questa conferenza stampa per capire un po' se ci sono dettagli ulteriori. Torniamo sull'Italia, parliamo del matrimonio che è sempre più in crisi, dice un'indagine Istat. Ci si sposa sempre meno e sempre più tardi. Un'altra novità è l'ormai prossimo sorpasso tra matrimoni civili e religiosi. Dario Ceccarelli ha intervistato Giancarlo Gualtieri, curatore della ricerca. Allora, dottor Gualtieri, una cosa la possiamo dire: il matrimonio non gode di buona salute. Assolutamente no. Guardando i dati ci accorgiamo che il fenomeno del matrimonio è in continuo calo ormai da 40 anni e soprattutto negli ultimi 5-6 anni, e questo calo si è accentuato moltissimo. Basti vedere che negli ultimi 5 anni il calo dei matrimoni è mediamente di 10.000 unità all'anno. I più coinvolti sono i giovani, le coppie che una volta andavano tradizionalmente presto al matrimonio. Giovani e soprattutto giovani italiani, questo dovuto al fatto, sempre parlando di diminuzione dei matrimoni in valori assoluti, dovuto al fatto che la popolazione giovane nella fascia d'età 16-34, tanto per dirne una, italiana, è diminuita negli ultimi 5 anni di quasi il 25%. E questo è anche un aspetto dell'evoluzione della società? Sì, esattamente. Tant'è che non è solo una questione strutturale di popolazione, ma è proprio una questione di propensione a sposarsi sempre meno da parte di queste coppie giovani, e comportamenti che cambiano anche se vediamo altri aspetti, tipo la distinzione tra matrimoni civili e matrimoni religiosi. Cioè, ormai si può parlare quasi di sorpasso, mi sembra, soprattutto al nord. Esattamente così. Se a livello medio italiano ancora i matrimoni religiosi sono di più rispetto a quelli civili, parliamo del 43% dei civili rispetto al 56% dei religiosi, e vediamo le ripartizioni del nord e del centro, in realtà il sorpasso è già avvenuto da qualche anno. Al nord abbiamo il 55% dei matrimoni civili e al centro il 51%. Notizie che sono arrivate pochi istanti fa dalle agenzie, che riguardano l'inchiesta della quale ci siamo occupati ieri, quella che riguarda l'olio extravergine che la procura di Torino suppone non essere tale, ma spacciato come extravergine, in realtà semplice olio d'oliva. C'è anche il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci tra i reati ipotizzati dalla procura di Torino, e sulla base di questa nuova ipotesi, che si aggiunge all'ipotesi di frode in commercio, la procura ha chiesto il trasferimento dell'inchiesta a Firenze, Genova, Spoleto e Velletri. A questo punto sono sostanzialmente 5 le procure che indagano su questa vicenda. Nel frattempo le aziende si difendono e dicono: chiediamo alla procura di Torino una controprova, perché il nostro olio è extravergine. Vedremo come andrà a finire questa vicenda, ma restiamo sulla cronaca italiana perché emergono ulteriori dettagli sulla vicenda dell'abate di Montecassino, al quale è stato sequestrato 500.000 euro. Rubava i soldi destinati alla carità e li spendeva per viaggi di lusso, feste, shopping e persino per acquistare droga. Sono accuse pesanti quelle rivolte a Pietro Vittorelli. Appropriazione indebita e riciclaggio sono le ipotesi di reato contestate all'ex abate di Montecassino, indagato assieme al fratello Massimo, titolare dei conti bancari sui quali a partire dal 2008 sarebbero finiti i fondi dell'8 per 1000 della sua diocesi. Protagonista di serate mondane nel 2010, Vittorelli era stato segnalato dalla prefettura per l'uso di ecstasy. Secondo gli inquirenti, il religioso sarebbe riuscito a spendere fino a 34.000 euro in un solo mese. La Guardia di Finanza ieri gli ha sequestrato oltre 588.000 euro. I movimenti di denaro sui conti bancari di Vittorelli sarebbero andati avanti fino a qualche mese fa, nonostante le dimissioni chieste e ottenute dal Vaticano 3 anni fa dopo una serie di denunce interne e nonostante l'invito di Papa Francesco a ritirarsi a vita privata in un'abbazia nel Padovano. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Il caso di Vincenzo De Luca, il presidente della Regione Campania, indagato in un'inchiesta nella quale si ipotizza un tentativo di orientare la sentenza che gli ha consentito di rimanere alla guida della Regione, ossia la sentenza che ha sospeso l'applicazione della legge secondo la quale, in quanto condannato, non avrebbe potuto governare. Rischia tra l'altro il trasferimento d'ufficio per incompatibilità il giudice del Tribunale di Napoli, Anna Scognamiglio, che è al centro dell'inchiesta. Appunto, la prima commissione del CSM ha chiesto all'unanimità l'apertura di una pratica a suo carico. Dal punto di vista politico, la vicenda resta fronte di forte tensione. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno, proprio così. Allora, il problema è che la minoranza democratica, se proprio non chiede le dimissioni di De Luca, in pratica le vorrebbe. Infatti Gianni Cuperlo questa mattina ha attaccato, ha detto che su De Luca e su Marino ci sono stati due pesi e due misure, ha detto giustamente ci chiediamo in tanti cosa ci sia diverso tra le due situazioni, vero, non ci si dimette per un avviso di garanzia, ma Marino non aveva nemmeno quello. Quella di De Luca, dice poi Cuperlo, è una storia sbagliata. E irritazione ci sarebbe stata a largo del Nazareno da parte del vice segretario Dem Lorenzo Guerini proprio sulla vicenda De Luca, perché il governatore della Campania, avendo saputo dell'inchiesta in corso, non avrebbe avvertito il PD nazionale. Questa mattina poi il premier Matteo Renzi non ha risposto a una domanda su De Luca, in viaggio a Malta per il vertice sull'immigrazione ha detto mi chiedete queste cose proprio qui, quindi irritazione da parte dei Dem proprio su questo caso. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito. Renzi invece ha parlato della legge di stabilità e di flessibilità. Su questo torneremo più avanti perché ci sono delle novità interessanti anche proprio che riguardano la manovra. Intanto vogliamo occuparci di politica sportiva perché abbiamo una sorta di short list, così possiamo chiamarla, dei candidati alla presidenza della FIFA. Sono cinque e al momento non c'è Platini. Carlo Genta, ciao. Ciao, pura politica anche questa, politica calcistica ovviamente, attese queste elezioni inquinate dalle vicende che conosciamo bene, dicevi correttamente, non c'è Platini perché la commissione etica, la commissione elettorale della FIFA non l'ha incluso nel novero, nell'elenco dei cinque possibili candidati. La valutazione però, ricordiamolo, su Platini è sospesa in considerazione del giudizio pendente da parte della commissione etica per la vicenda Blatter di quel pagamento birbante. Ma chi sono questi cinque candidati alla fine? Sono Salman bin Al-Khalifa, poi c'è Al-Hussein di Giordania, il francese Jérôme Campagne, il sudafricano Tokyo Sexwall, nome e cognome che è tutto un programma, e quello che è attualmente il favorito, che è il segretario generale dell'UEFA, Gianni Infantino, che però ha già detto se ammettono Platini io potrei tirarmi fuori dai giochi, quindi quindi questa è la shortlist. Quello che succederà da qui al 26 febbraio è ancora difficile da immaginare. C'è questo giudizio pendente su Platini, che però la sua candidatura non l'ha ritirata. Dunque siamo a un elenco di nomi, ma di definitivo ancora non c'è molto poco. Grazie al nostro Carlo Genta, che ritroviamo a partire dalle 14 con tutti i convocati. Non ci fermiamo, c'è il traffico, parliamo subito dopo di legge di stabilità. Torniamo a parlare di matrimoni, di questo calo dei matrimoni, un nuovo calo dei matrimoni, insomma, un meno 25% circa negli ultimi, dal 2008 al 2014. In Italia parliamo con un sociologo, parleremo anche di terrorismo. Tra poco. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta. Effetto giorno. Eccoci di nuovo, effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. In primo piano l'operazione contro il terrorismo jihadista a una base a Merano, gli ordini arrivavano da un mullah detenuto in Norvegia. L'omicidio di Ancona, emergono dettagli dall'ordinanza del GIP. Antonella Marrone, Antonio Tagliata ha ucciso la madre della fidanzata con un colpo alla testa quando la donna era già a terra, una vera e propria esecuzione. Nuovo calo dei matrimoni, meno 23% dal 2008 nel nord, sorpasso tra civili e religiosi. Si chiude il vertice sull'immigrazione a Malta, le conclusioni firmate all'unanimità, dice Tusk. Legge di stabilità, tra gli emendamenti il raddoppio del bonus mobili per le giovani coppie. Ricominciamo proprio da qua e lo facciamo con il nostro Vincenzo Miglietta in diretta da Roma, che ci aiuta a capire come stanno andando le cose su questo fronte. Vincenzo. Sì, buongiorno. Punto di oggi, Simone, sulla legge di stabilità che parte dall'ultimo emendamento approvato in commissione bilancio. Lo anticipavi, si tratta del tetto del bonus mobili per le giovani coppie che raddoppia. La detrazione verrà infatti calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro contro i precedenti 8.000. Ed ancora su IMU e TASI passa su proposta del PD la deroga per i comuni che hanno approvato delibere relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi entro il 23 settembre di quest'anno. La scadenza prevista per gli enti locali è altrimenti quella del 30 luglio. Sin qui quanto approvato per i grandi temi, ovvero pensioni, regioni, decontribuzione per i nuovi assunti e mezzogiorno, la partita è rimandata forse a fine novembre, quando si avranno maggiori certezze sulle risorse e sulla flessibilità concessa da Bruxelles. Le nostre richieste, ricorda intanto il Presidente del Consiglio Renzi, sono in linea con le regole stabilite dalla stessa Unione Europea. Sentiamo allora Renzi. Ci sono delle singole valutazioni su singoli punti che verranno, immagino, affrontate in queste ore come succede per tutti gli altri paesi. La sintesi però è che questa legge di stabilità è una legge di stabilità che va bene, che abbassa le tasse, che dà un segnale vero sui temi della solidarietà, penso alla povertà, e che dà un segnale di ripartenza e di fiducia all'economia, ai superammortamenti e le misure che conoscete. E dunque questa legge di stabilità va. In chiusura, Simone, le altre ipotesi di intervento sulla manovra in commissione bilancio del Senato. In queste ore si parla soprattutto di spiagge, con l'ipotesi di prorogare di 2 anni la sanatoria già varata nel 2014, ipotesi anche di vendita delle spiagge e delle attività balneari, con un emendamento però ancora da verificare, a firma Forza Italia. È tutto, linea allo studio. Ti ringrazio, grazie a Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento, e ve ne diamo un altro noi che è arrivato pochi istanti fa. Il governo ha messo alla Camera la fiducia sul decreto legge per il rientro dei capitali, la cosiddetta voluntary disclosure. Lo ha annunciato all'Assemblea il ministro per i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, convocata alla conferenza dei capigruppo per decidere come proseguiranno i lavori. E torniamo sulla nostra notizia di apertura, ossia questa operazione contro il terrorismo internazionale. Saluto Alessandro Orsini, che è direttore del Centro per lo Studio del Terrorismo dell'Università di Roma Tor Vergata, è anche research affiliate all'MIT di Boston, docente di sociologia del terrorismo alla LUIS e docente di sociology alla Loyola University di Chicago di Roma in realtà. Professor Orsini, spero di non aver dimenticato qualcosa, eccoci. Buongiorno, grazie della presentazione. Collegato con noi via Skype. Allora, professore, che cosa rappresenta l'operazione di questa mattina? Ma io direi che le notizie buone sono numerose. In primo luogo rappresenta il fatto che dopo la strage di Charlie Hebdo del gennaio scorso le intelligence europee hanno migliorato la propria capacità di coordinarsi, perché come abbiamo visto questa è un'operazione di polizia che è stata resa possibile dalla collaborazione virtuosa tra le intelligence di almeno 5 paesi. L'altra buona notizia è che l'intelligence italiana dimostra ancora una volta di essere particolarmente efficace, perché non è la prima volta che l'intelligence italiana riesce a smantellare cellule terroristiche particolarmente pericolose. E direi che c'è anche una terza buona notizia che riguarda il fatto che paradossalmente l'ISIS libera le nostre città dal pericolo di attentati terroristici, a differenza di Al-Qaeda, perché ha una strategia diversa. Al-Qaeda spingeva terroristi dal Medio Oriente verso l'Europa perché pensava che l'attentato terroristico perfetto fosse quello contro le nostre città, mentre l'ISIS cerca di spingere terroristi dall'Europa verso il Medio Oriente perché ritiene che sia prioritario non realizzare attentati terroristici contro le nostre città, ma reclutare terroristi che possano andare a combattere per l'edificazione del califfato in Siria e in Iraq. Un'altra, sì, prego, mi dica. Sì, professore, avrei una domanda, una cosa che probabilmente incuriosirà molti ascoltatori o alcuni ascoltatori. Abbiamo visto che la base, come dire, del proselitismo che veniva fatto da questo gruppo jihadista era a Merano. Secondo lei è, come dire, un fatto casuale o perché in qualche misura quell'area del paese rappresenta una sorta di porta verso il nord Europa? Ma se noi guardiamo le statistiche vediamo che l'intelligence italiana ha smantellato soprattutto, mi riferisco al passato, cellule terroristiche o microcellule che si trovavano in Lombardia o comunque nel nord Italia, e quindi la risposta alla sua domanda è che se guardiamo i dati c'è una maggiore concentrazione, una maggiore presenza di questo tipo di cellule nel nord d'Italia rispetto al meridione. E questo per quale motivo essenzialmente, secondo lei, professore? Ma le ragioni possono essere varie. In primo luogo, all'inizio degli anni 90 a Milano esisteva una vera e propria centrale di Al-Qaeda che fu poi smantellata appunto da un'importante operazione di polizia nel 2001 che portò all'arresto di numerose persone. Quella era davvero un'organizzazione pericolosa che gravitava appunto attorno alla moschea di Milano, tra l'altro. E quindi diciamo che c'è una tradizione da questo punto di vista, se così possiamo definirla. Ci sono anche altre ragioni, anche dal punto di vista logistico, perché come diceva lei è un luogo più vicino all'Europa che quindi consente una maggiore facilità di movimenti. Probabilmente certo. Ci sono anche delle ragioni più profonde sociologiche, perché voglio dire anche la Puglia è a due passi dai Balcani, però non abbiamo una forte concentrazione di cellule terroristiche in quell'area del paese. La ringrazio, grazie al professor Orsini per essere stato con noi, non le ripeto tutte, però direttore del Centro per lo Studio del Terrorismo dell'Università di Roma a Tor Vergata e docente di sociologia del terrorismo alla Luis Guido Carli di Roma. Ci spostiamo a parlare di calcio, ma non solo di quello, a dire il vero, perché domani la nazionale italiana sarà impegnata nell'amichevole contro il Belgio, ma l'attenzione è concentrata su un anniversario, i 30 anni dalla tragedia dell'Aizel, che verranno ricordati anche durante il match. C'è là il nostro Dario Ricci. Dario, buongiorno. Sì, buongiorno da Bruxelles. Simone, hai detto perfettamente, quella contro il Belgio è un notevole dai tanti significati, quelli calcistici, perché in questo momento il Belgio è addirittura il numero uno del ranking mondiale, ma soprattutto si commemorano i 30 anni della tragedia dell'Aizel. Quello stadio oggi si chiama Stadio del Re Baldovino, ma nella storia del calcio rimane lo stadio Aizel. Il 29 maggio del 1985 Juventus e Liverpool dovevano giocarsi lì la Coppa dei Sogni, la Coppa dei Campioni, ebbene la follia degli hooligans inglesi, l'impreparazione e la disorganizzazione della polizia belga e dell'UEFA, il crollo del muretto contenitivo del settore Z preso d'assalto dagli hooligans e in cui c'erano molti tifosi juventini, trasformò quella partita in tragedia. 39 le vittime, gran parte tifosi bianconeri, e oggi la nazionale, tra oggi e domani, le ricorderà, le commemorerà in questo trentesimo anniversario. Stasera alle 18.45 proprio allo stadio del Re Baldovino, ma permettimi di chiamarlo ancora Stadio Aizel, ci sarà una cerimonia in cui ci saranno i familiari delle vittime, verrà simbolicamente ritirata la maglia numero 39 della nazionale. Come sai è una maglia che nessuno ha mai indossato, ebbene da oggi nessuno potrà più indossarla, proprio perché è dedicata a quei morti. E domani durante la partita ci saranno, prima e durante la sfida, i calciatori belgi e italiani ricorderanno ancora quello che accadde qui 30 anni fa. Molto spesso siamo pronti a criticare il nostro calcio perché lui ce ne offre più che legittimi motivi, direi che però questo è un gesto degno di una grande nazionale, perché quei morti oggi non sono più bianconeri, non hanno più una bandiera, ma sono di tutti noi, Simone. Grazie a Dario Ricci e buon lavoro nel seguire anche queste commemorazioni. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire tra un attimo che cosa succede sui mercati oggi e poi torneremo a parlare di matrimoni, di questo dato arrivato oggi dall'Istat che indica un ulteriore calo. Insomma, negli ultimi anni non hanno fatto altro che scendere, tra l'altro aumentano di molto quelli civili, e vedremo anche di capire che cosa rappresenta tutto questo e che cambiamento rappresenta tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Le nostre notizie, iniziando dalle ultime dichiarazioni di Vincenzo De Luca, presidente della Campania. Probabilmente qualcuno aveva voglia di fare un po' di millantato credito, ha detto pochi istanti fa. Stiamo cercando di recuperare la voce dalla web TV del mattino e magari vi faremo sentire un passaggio più avanti. L'operazione contro il terrorismo jihadista ha una base a Merano e gli ordini arrivavano da un mullah detenuto in Norvegia. Omicidio di Ancona, Antonio Tagliata ha ucciso la madre della fidanzata con un colpo alla testa quando la donna era già a terra, lo scrive il GIP, di fatto un'esecuzione. 8 in manette tra Italia e Grecia per gli scontri nel giorno dell'apertura di Expo, identificati grazie ai video e alla spesa in un supermercato. Si chiude il vertice sull'immigrazione a Malta, le conclusioni firmate all'unanimità, bicchiere molto più che mezzo pieno, dice Renzi. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo con Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. E torniamo dal nostro Sergio Nava, perché credo che siamo a ridosso della conclusione della conferenza stampa, conclusiva a sua volta, e scusate il gioco di parole, insomma la cacofonia, del vertice di Malta, quello sull'immigrazione. Sergio. Sì, buongiorno, conferenza stampa conclusa pochi minuti fa, investimenti nello sviluppo ed eradicamento della povertà, promozione di canali legali per l'immigrazione, rafforzamento della protezione per i rifugiati, prevenzione e lotta contro l'immigrazione irregolare e i trafficanti di uomini, infine accordi di cooperazione per i rimpatri dei migranti. Questi sono i 5 punti del piano d'azione approvato oggi all'unanimità dai 60 leader europei e africani all'interno della dichiarazione politica. Occorrerà chiaramente vedere quali fatti seguiranno a questi impegni. Per il momento c'è solo il 1,8 miliardi che la Commissione europea ha messo a disposizione nel nuovo fondo fiduciario d'emergenza, quasi 2 miliardi che nelle intenzioni dovrebbero venire raddoppiati dai contributi dei paesi comunitari. Al momento però dal versante nazionale arrivano, pensate, solo 81 milioni. Nella conferenza stampa finale il Presidente del Consiglio europeo Tusk ha detto che si faciliteranno i rimpatri, preferibilmente su base volontaria, e che i team dei paesi africani viaggeranno nei paesi europei per identificare i profughi che cercano asilo. E ora ascoltate cosa dice Tusk su Schengen. Saving Schengen is a race against time. Salvare Schengen, dice Tusk, è una corsa contro il tempo. Siamo determinati a vincere questa corsa perché, spiega Tusk, senza controlli effettivi ai confini comunitari le regole di Schengen non sopravviveranno. Infine vi segnaliamo anche cosa ha detto il Premier Renzi stamattina. Oggi l'Europa prende su di sé con un esborso significativo il tema di un rinnovato rapporto con l'Africa. Questo è un fatto positivo. Poi si può discutere se il fondo potesse essere più cospicuo o meno. Dice Renzi che vede il bicchiere molto più che mezzo pieno. L'Italia non è più sola sulla questione rifugiati, l'Africa è una priorità anche se non è la sola priorità, così il Premier. Per il momento è tutto. E grazie Sergio Nava. Saluto Carlo Rimini, avvocato, professore ordinario di diritto privato all'Università di Milano, professore di diritto di famiglia all'Università di Pavia, collaboratore editorialista della Stampa sui temi della famiglia. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, che cosa rappresentano i dati diffusi oggi dall'Istat che indicano un ulteriore calo dei matrimoni? Insomma, abbiamo fatto un calcolo approssimativo, c'è un calo di circa un quarto dal 2008 al 2014. Che l'istituzione del matrimonio sia in crisi mi sembra evidente, mi sembra piuttosto evidente. A cosa dobbiamo attribuirla questa crisi? Ma a due fenomeni. Uno è ovvio, cioè il matrimonio non è più l'unico contenitore etico della famiglia, cioè la gente non pensa più che mettere insieme una famiglia senza il matrimonio sia una cosa contraria alle regole etiche o religiose a seconda delle credenze o non credenze di ciascuno. Lo fanno tutti. E quindi la cosa è, se mi passa un termine poco da professore, sdoganata. Vivere assieme senza sposarsi è ormai tollerato. Ed è un fenomeno ovviamente che si alimenta da solo. Ma al di là di questa, che è una considerazione ovvia, c'è un fenomeno un po' più profondo sul quale varrebbe la pena di riflettere. E tra l'altro uno spunto per una riflessione in questa direzione è il fatto che all'estero questa tendenza non è così marcata, cioè all'estero la curva di diminuzione del matrimonio è molto meno pronunciata che in Italia. E questo da cosa dipende secondo lei? Secondo me dipende, e io francamente lo vedo tutti i giorni dalle persone che vengono a parlare con me, a chiedere un consiglio, dalla assoluta sfiducia che hanno i giovani italiani nei confronti della normativa che regola il matrimonio in Italia. È una legge fatta, diciamo, nel 1975 e da allora sostanzialmente mai cambiata, che viene ormai percepita come totalmente inadeguata e soprattutto totalmente impreparata a rispondere ai problemi della crisi del matrimonio. Che naturalmente la gente ci arriva da sola a capire che finché tutto va bene non c'è bisogno di leggi, non c'è bisogno di codici, non c'è bisogno di giudici, non c'è bisogno di avvocati, e la gente si arrangia da sola. Quindi mi spieghi una cosa, il fatto, l'approvazione dell'accelerazione delle procedure che riguardano il divorzio e l'eventuale divorzio breve in realtà potrebbero portare paradossalmente ad un aumento dei matrimoni, dice lei? Ma non è, no, quello un minimo sì, ma la gente non è preoccupata per il tempo che ci si impiega a divorziare, magari un minimo, ma la gente si chiede, ma che cosa cambia se mi sposo? Quale maggior tutela ho? E la risposta è cambia poco e soprattutto cambia male. Nel senso che le parti forti dicono, oh no, ma se mi sposo o devo mantenere la parte debole per tutta la vita e non lo voglio. La parte debole, per contro, dice, ma tanto poi se mi sposo e le cose vanno male, mi liquida con un tozzo di pane e allora tanto vale vivere assieme così. Cioè le norme che risolvono i conflitti fra i coniugi nei loro rapporti dopo la separazione e il divorzio sono generalmente percepite come totalmente inique sia da una parte sia dall'altra, cioè sono scontenti tutti e questo francamente è inaccettabile da parte del legislatore, sono percepite come inique e non efficienti. A quel punto nella proprio basta sentire i discorsi delle persone sui treni, no, che dicono no ma tanto non serve a niente, poi serve solo a dar da mangiare agli avvocati, che può anche essere, come dire, nel senso che effettivamente le liti poi sono inefficienti, risolvono in modo ingiusto i conflitti e poi sono anche lente, costose, eccetera. Per cui le persone stanno lontane da un istituto che non viene più vissuto come tutelante. La ringrazio, grazie anche per questa lettura a Carlo Rimini, che è professore di diritto privato all'Università di Milano e professore di diritto della famiglia all'Università di Pavia e appunto editorialista della Stampa su questi temi. C'è il traffico, il nostro Mario Platero, ci ritroviamo alla fine per i saluti.